Il fuggitivo e l'inseguitore. Leggo nella Bibbia in Giona, capitolo 1, versetti 4 a 10. Il Signore scatenò un gran vento sul mare e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. I marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Giona invece era sceso in fondo alla nave, si era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: «Che fai qui? Dormi! Alzati, invoca il tuo Dio! Forse egli si darà pensiero di noi e non periremo!» Poi si dissero l'un l'altro: «Venite, tiriamo a sorte e sapremo per causa di chi ci capita questa disgrazia!» Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Allora gli dissero: «Spiegaci dunque per causa di chi ci capita questa disgrazia. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni?» Egli rispose loro: «Sono ebreo e temo il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terraferma». Allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli domandarono: «Ma perché hai fatto questo?» Quegli uomini infatti sapevano che egli fuggiva lontano dalla presenza del Signore, perché egli li aveva messi al corrente della cosa. A volte ci comportiamo in maniera davvero strana. Diciamo di credere in un Dio onnipotente, onnipresente, e poi viviamo come se potessimo tenergli nascosto qualcosa. Dio aveva affidato un compito speciale al profeta Giona, quello di andare a Ninive a portare il suo messaggio, ma Giona era scappato in direzione opposta, come se si potesse fuggire da Dio. Tuttavia il fuggitivo non riuscì ad allontanarsi troppo, perché Dio in un certo senso lo stava inseguendo. Giona si era rifiutato di andare a Ninive, in mezzo ad un popolo idolatra, perché non voleva che avessero una possibilità di salvezza, e Dio con una certa ironia lo andò a prendere anche sulla nave diretta a Tarsis, servendosi proprio di marinai idolatri per recuperarlo. I marinai si rendevano conto di essere in mezzo ad una tempesta che non era come le altre. Spaventati, cercavano di alleggerire la nave e intanto invocavano i propri dei. Invece Giona, l'unico che conosceva il vero Dio, dormiva tranquillo in fondo alla nave e fu proprio un pagano, il capitano della nave, a stimolarlo ad invocare il proprio Dio. Ma Giona, anche dopo che il capitano lo aveva svegliato, non disse nulla finché i marinai non tirarono a sorte per capire chi era il colpevole di quella disgrazia. Che vergogna per Giona quando la sorte cadde su di lui. A quel punto, smascherato e incalzato dai compagni di viaggio, fu costretto ad ammettere la sua provenienza, la sua fede in Dio e soprattutto ciò che aveva combinato. Lui che credeva nel Dio del cielo, creatore di ogni cosa, era il colpevole di ciò che stava accadendo anche a quei pagani. Per colpa sua l'intera nave era in pericolo. Essi non potevano credere alle loro orecchie mentre ascoltavano il racconto di Giona e si stupivano di ciò che aveva fatto. Si trovò quindi a testimoniare della sua fede nel Dio creatore, che aveva ogni cosa sotto il suo controllo, dovendo però ammettere di essere stato lui stesso disubbidiente a quel Dio di cui stava testimoniando. È difficile immaginare una situazione più triste per un credente: essere costretto ad ammettere la propria disubbidienza davanti a persone che non conoscono Dio. Quando cerchiamo di scappare da Dio, ricordiamoci dell'esperienza di Giona. Per riportare Giona indietro, Dio dovette intervenire in maniera energica. Giona, come si vede leggendo il resto del libro, andò molto vicino a perdere la vita per questa sua disubbidienza. Non sarebbe stato meglio ubbidire subito a Dio? Ma ciò che è accaduto a Giona è una grazia più che una punizione. Se Dio non avesse inseguito Giona, se lo avesse lasciato andare, come sarebbe finito il profeta? Sarebbe stato ancora uno strumento utile nelle mani di Dio? Ringraziamo Dio, perché se siamo Suoi figli, Egli ci tratta come figli e nel Suo amore per noi ci corregge come fa un padre, per il nostro bene.